Dopo ormai 2 mesi dall'inizio del conflitto, bisogna rilanciare l'iniziativa pacifista e il movimento per la pace. Sinistra Unita per Bologna propone quindi 3 azioni, 3 tipi di iniziative diverse. La prima, una petizione popolare per il disarmo nucleare e perché l'Italia ratifichi il trattato contro le armi nucleari. E quindi una petizione che noi sottoporremo ai cittadini, ma anche agli amministratori di questa città, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, i consiglieri di quartiere, in modo che tutti i cittadini possano sapere chi gli amministra, qual è la sua posizione sul disarmo nucleare. La seconda petizione è contro l'aumento delle spese militari. È stato annunciato dal governo la volontà di portare al 2% del PIL, noi siamo assolutamente contrari e quindi Sinistra Unita per Bologna proporrà anche questa petizione ai cittadini e agli amministratori di questa città. La terza iniziativa è una delibera dei consiglieri di quartiere, una proposta di delibera dei consiglieri di quartiere di Sinistra Unita per Bologna contro il caro vita e le speculazioni dovute alla guerra. Noi proponiamo quindi che venga istituita una commissione di controllo dei prezzi, sia dei carburanti, sia delle utenze, sia dei prodotti di largo consumo, una commissione costituita dal comune, dai quartieri, dalle associazioni dei consumatori e dai sindacati, che possa monitorare la situazione, denunciare le speculazioni e eventuali truffe. È stato lo stesso governo, tramite il ministro Cingolani, a dichiarare che ci sono speculazioni ingiustificate. Sinistra Unita per Bologna propone che il Comune intervenga per denunciare le speculazioni causate dalla guerra sulla pelle dei bolognesi e delle bolognesi. Siamo in Comune di Bologna, nella città, l'idea non è proprio chiara sulla guerra, secondo voi? Ma ci sono molte contraddizioni e comportamenti, io penso, incoerenti da parte degli esponenti dei partiti che sono al governo nazionale. Non si può essere per la pace da un lato e dall'altro lato essere favorevoli all'invio delle armi in Ucraina che la guerra la prolungano. Non si può essere per la pace e il dialogo e poi dall'altro lato essere indifferenti rispetto al fatto che il governo italiano non ratifica il trattato per il disarmo nucleare. Noi su questo chiediamo un atto di coerenza politico. Sinistra Unita su questo è molto determinata e noi renderemo pubblici ovviamente i nomi degli amministratori e dei politici che sottoscriveranno le petizioni che proponiamo, così come renderemo pubblico anche, diciamo così, eventuali dinieghi. Due cose sono le petizioni che noi rivolgiamo principalmente al capo del governo, ai ministri e al Parlamento e quindi questa riguarda la petizione sul disarmo nucleare e quella contro l'aumento delle spese militari. La terza cosa che proponiamo invece è una delibera che è proprio competenza dei quartieri e del Consiglio Comunale di Bologna il controllo dei prezzi contro le speculazioni dovute alla guerra. Durante il secondo conflitto mondiale c'era la borsa nera, che era uno scandalo organizzato dalla malavita per alimentare la speculazione sui beni di prima necessità. Sinistra Unita per Bologna pensa che bisogna impedire che col conflitto russo-ucraino ci sia una borsa nera moderna a danni dei cittadini. A proposito del carovita, come valutate il decreto aiuti del governo? Da un lato è davvero troppo poco e dall'altro lato alla fine a pagare sono sempre i cittadini, perché se i prezzi aumentano e gli aiuti vanno invece che alle famiglie e ai lavoratori, vanno direttamente alle imprese, ovviamente è un cortocircuito che va sempre a pescare nelle stesse tasche. Da questo punto di vista qua Sinistra Unita sostiene per esempio lo sciopero promosso da alcuni sindacati di base il 20 maggio prossimo contro l'intervento militare per la pace e contro la guerra, ma anche contro le speculazioni e contro il caro vita. Nei giorni scorsi USB, Potere al Popolo, hanno denunciato aggressioni da parte di membri di comunità ucraine o comunque di danneggiamenti che secondo loro erano riconducibili alla guerra e facevano appello diciamo, alle forze politiche, alle associazioni in città per creare un movimento che sia davvero contro la guerra. Voi siete d'accordo con questa proposta, diciamo? Noi siamo solidali ovviamente con i compagni e le compagne che hanno subito queste aggressioni e queste provocazioni intollerabili in una città come Bologna e intollerabili in uno Stato nato da una resistenza antifascista. Ne abbiamo avuti abbastanza di fascisti e nazisti in Italia, eviteremo di doverci sorbire anche quelli di importazione e quindi da un lato siamo solidali, dall'altro lato siamo assolutamente disponibili a rilanciare non soltanto il movimento contro la guerra e per la pace, ma rilanciare anche il movimento antifascista e antinazista in questa città.